siamo a Visionari come ogni giovedì, e per saperne di più sulla scaletta di quest'oggi per il cinema su Radio Onda Rossa tutti i giovedì la potete trovare sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Per quanto riguarda la diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal vostro PC o da un qualunque computer, basta andare sul sito internet della radio e sull'home page c'è l'opzione ascolta la diretta. Siamo in collegamento con Angelo Draicchio della Ripley's Film per parlare della distribuzione del film Io sono Mateus, uscito in sala lo scorso giovedì 12 marzo. C'è stato forse un corto di ritorno su, diciamo, per parlare dell'altra IMAX. Ah, scusami, è vero, è vero. È uscita per il 1 marzo, il 1 aprile. Sono andato in cortocircuito, sì. Per l'altra IMAX. Cronaca di un sogno. Allora, sarà distribuito a partire, in due giornate, il 31 marzo. Diciamo che il film parte con due giornate uniche, il 31 marzo e il 1 aprile, e poi, come è stato per Anna Arendt lo scorso anno, il film poi prosegue per le sale che decideranno di proseguirlo, come è sempre stato. Dipende adesso cosa succederà con questo nuovo emblematico e forte film di Reitz. Il principio di tutto, prequel non è dato, non è concesso dal regista, che si è anche abbastanza arrabbiato a Venezia durante la presentazione quando qualcuno disse è il prequel. Sì, sì. Senti, parliamo, allora ricordiamo intanto che qui a Roma, per chi è interessato, sarà al Farnese nella giornata del 24 marzo alla presenza dello stesso regista, se non sbaglio. Sì, grazie di averlo ricordato. Il 24 Reitz è a Roma per l'anteprima che abbiamo organizzato al Farnese, e alle 19 in punto, e introdurrà il film. Ha altre due date, una a Milano il 22 dove ci sarà una anteprima milanese, dopodiché un'anteprima a Torino il 23 e poi a Roma. È un tour che poi prosegue anche su Bifest di Bari, dove Reitz appunto avrà diversi incontri con la stampa per promuovere questo ultimo capitolo, che è appunto, come si diceva, il primo. Credo che sia un momento abbastanza importante per chi è appassionato di IMAX, ma soprattutto ammira Reitz, poterlo vedere e ascoltare dalla sua voce un'introduzione a questo film, che è veramente un'opera straordinaria. Ecco, dicevi prima della polemica legata al fatto che fosse considerato un prequel questo IMAX. Parliamo più in generale di tutta l'operazione IMAX e questo lavoro di dimensioni piuttosto notevoli. Angelo. Diciamo, la serie di IMAX è conosciuta molto in Italia, anche perché l'Italia, devo dire, grazie al lavoro che fece all'epoca la Mikado, che fu il distributore del primo IMAX, ebbe un enorme successo a livello internazionale, nel senso che l'Italia ha dato molto a quest'opera, che era un'opera televisiva e fu distribuita in 11 capitoli, in 11 episodi distribuiti in Italia, al cinema in un periodo in cui si distribuivano i film in copie 35 mm, per cui si può immaginare l'enorme sforzo e l'enorme piacere di vedere questo grande successo. In gran parte dovuto al Sacher di Moretti, che programmò il film in maniera molto molto forte e gli diede lo spunto per partire. Diciamo, dopo tre capitoli della saga si arriva a fare un salto nel tempo, arriviamo nell'Ottocento, quindi non più ai nostri giorni, come era lo svolgimento naturale delle vicende di questa famiglia tedesca, e si va nell'Ottocento, a metà dell'Ottocento, è un momento in cui in questo particolare momento della Germania c'è un, una forte crisi economica e i protagonisti sono soggetti a vessazioni, a una situazione molto difficile che parecchi oggi hanno riconosciuto in quello che è il problema della gran parte dell'Africa del Nord ai nostri giorni. E questa famiglia si trova di fronte a una scelta drammatica, dover abbandonare la propria patria per scappare, evadere in un mondo migliore che è rappresentato dall'America del Sud, cosa che è successa storicamente, gran parte dell'emigrazione in Argentina dall'Europa era tedesca e si è concentrata in una zona un po' particolare di questo enorme paese sudamericano. Ci sono due punti di vista all'interno dello stesso nucleo familiare che sono i Simon di questo villaggio, tra Jacob, che è questo ragazzo che sogna un mondo completamente diverso e sopravvive alle fatiche della vita quotidiana attraverso il proprio immaginario, la lettura dei libri, e un punto di vista totalmente diverso che è quello del resto della famiglia, che è legato alla dura sopravvivenza di fronte a problemi che sono veramente pesanti, quali la carestia, la fame e i soprusi dei potenti questa regione, questo immaginario villaggio dell'Ansbruck, che poi è la regione di natale di Reich. Mm-hmm. Ed è la storia che si stila appunto attraverso questa scelta cruciale, questo drammatico momento che porterà parte della famiglia a trasferirsi in Argentina, America del Sud, a iniziare questo viaggio della speranza, e parte di coloro che rimangono in patria decidendo di affidare il proprio destino al paese che gli ha dato la vita. È una storia molto forte e molto dolorosa che Reich tra l'altro riesce a narrare in una maniera sintetica, analitica e straordinaria, nonostante la durata del film, come questo racconto si snodi e scivoli senza rallentare, un colpo di scena dopo l'altro, ed è davvero straordinario come Reich che è riuscito in un compito che credo sia veramente difficile, cioè raccontare tante vicende in un unico film, anche se nella durata, ricordo, di 230 minuti, che sarà distribuito in un'unica soluzione. Sì, sì, sì. Ecco, proprio in base a questa, cioè un lavoro piuttosto articolato e complesso, volevo chiederti, ecco, proprio le modalità distributive che avevate scelto, ecco, mi hai indicate adesso, insomma, su... Beh, ci siamo trovati di fronte, il film è uscito in Francia in due episodi, in Germania in un unico episodio, abbiamo deciso di seguire le indicazioni che erano proprie di Reich, quindi farlo uscire in sala in un'unica visione, evitando di spezzettarlo in due film come è successo in alcuni paesi. È una scelta, ritengo, coraggiosa, visto il momento e visto quello che succede in sala, ma credo che sarà una scelta che chi ha amato Heimat apprezzerà, perché gli darà la possibilità appunto di godere di un racconto che diciamo non è per nulla lento, anzi diciamo è qualcosa che lascia perplessi per quanto veloce sia la fruizione del film. E era l'unica maniera secondo noi di portarlo in sala, visto che diciamo è un'opera abbastanza particolare, non è certamente un film semplice da distribuire. Sì. Senti, per quanto riguarda le informazioni rispetto alle sale, ad esempio, ci dai dei riferimenti web? Beh, il film sarà in programmazione in molte delle Space Cinema o sale del Luci, così come sarà in tante altre sale indipendenti in giro per l'Italia. Sul sito Next Digital c'è l'elenco completo delle sale, per cui chi vorrà vedere il film potrà essere indirizzato a quella più vicina, a quella che tiene di più, e stiamo parlando già di circa 80 sale che programmeranno il film in quei due giorni. Bene, allora Angelo, io ti ringrazio, un abbraccio e ci sentiamo per le prossime novità. Ti ringrazio molto e niente, buona visione. Ciao, ciao, ciao. Angelo Draicchio di Ripley's Film sulla distribuzione del film L'altra Heimat, cronaca di un sogno, che qui a Roma sarà in una settimana di anticipo rispetto all'uscita ufficiale il 31 e il primo al Cinema Farnese qui a Roma il 24 marzo. E tu voti, Rizzo? Tu voti? No, io non voto, no, no, non mi piacciono le cabine, sono claustrofobica, non resisto in uno spazio ristretto. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo elettori il bagno alla turca, noi vogliamo, grazie della fiducia! Niente da fare, non mi fido di te né degli agenti di questo tuo governo d'occupazione, te lo dico per l'ultima volta, ho avuto ordine dal Tribunale Popolare del Sud Dakota di confiscare quello che questa banca ci ha rubato, porta via da qui i tuoi uomini o queste sanguisughe finiranno all'inferno. Una tequila? E padre Matteo dice che consolida la mia fede. Bianchi vincono tutti gli Oscar, è un dato di fatto. È un dato di fatto, però... Ho avuto però, la nomination? Però... No, e sai perché? Perché non faccio parti da schiavo, no, non mi faccio frustare, così ottieni la nomination. Parti da schiavo negro frustrato e ottieni la nomination, fai il bianco idiota e ottieni l'Oscar. No, dai, ma vai su. Dietro, fammi un copione con uno schiavo ritardato e vedi che Oscar. Lo sa che io non ci credo che lei lavora per la CIA? Perché no? Non lo so, insomma, sa, pensavo a gente come James Bond. No, sono tutti sul mio tipo. Io sono il classico agente della CIA, muscoloso, di poco ingombro, molto compatto. Ti interessa di entrarci? Ti assicuro che la cassa malattia è fantastica. E il segreto è non farsi ammazzare. Se ti ammazzano, la cassa malattia non ti serve più. Allora, siamo in collegamento con Luca Rossomando, autore del soggetto del documentario Il Segreto, che sarà qui a Roma al Cinema Film Studio oggi 19 marzo alla presenza proprio di Luca. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Salve, ciao a tutti. Allora, ne avevamo parlato tempo fa di questo lavoro, adesso c'è l'uscita. Luca, per chi è all'ascolto, ricordiamo di cosa si tratta. Sì, allora è un documentario, racconta di un gruppo di ragazzini dei quartieri spagnoli di Napoli che raccolgono degli alberi di Natale dismessi, diciamo, la storia è ambientata nei primi 15 giorni di gennaio e i ragazzini, insomma, stanno raccogliendo questi alberi per il falò di Sant'Antonio del 17 gennaio, che è una tradizione che qui, insomma, è abbastanza sentita un po' in tutti i quartieri della città. Subito dopo Capodanno ci sono un po' di gruppi, bande di ragazzini che girano per le strade, raccolgono legna da bruciare e poi, insomma, si fanno nei diversi quartieri questi grandi falò all'aperto il 17 gennaio. E noi, insomma, abbiamo seguito appunto per un paio di settimane questi ragazzi dei quartieri spagnoli che si spingono anche molto lontani dal quartiere, insomma, arrivano, per chi conosce Napoli, fino a Mergellina o, insomma, a Chiaia, nei quartieri, anche, diciamo, nei quartieri bene della città, e senza troppi scrupoli vanno dritti al loro obiettivo, che è quello di raccogliere questi alberi e poi li riportano alla base nel quartiere, che in una specie di cantiere abbandonato, di spiazzo tra i palazzi. I quartieri spagnoli sono un posto molto denso di edifici, diciamo, ci sono poche piazze, pochi slarghi, e uno di questi, insomma, è il cosiddetto segreto del film, cioè il nascondiglio dove i ragazzini riportano gli alberi, accumulano gli alberi e poi dove faranno il falò l'ultimo giorno. Poi, insomma, essendo un documentario, ci sono anche degli imprevisti, appunto, proprio dell'ultimo giorno, che rendono da un lato più, diciamo, un po' di suspense nel film, dall'altro rendono esplicite una serie di cose che, diciamo, anche un po' le ragioni del nostro del seguire questi ragazzi, un po' rendono esplicite il rapporto di questo tipo di ragazzini di strada con l'autorità, con gli adulti, e il loro modo di usare la città, che non è proprio, diciamo, abituale ormai per i bambini, per i ragazzi nelle nostre città. Ecco, dicevi le ragioni del vostro seguirli, ecco, come è nata l'idea di realizzare questo documentario? L'idea è nata perché Chop e Cuff che dipingono sui muri, sono insomma artisti napoletani che usano diversi mezzi di espressione, questo film ne è un esempio, ma di preferenza dipingono sui muri, e per anni hanno dipinto i muri di quartieri spagnoli, e inevitabilmente la relazione con i bambini, con i ragazzini, è quella che si instaura subito quando ti metti a dipingere per strada, per cui sono ragazzini che conosciamo già per una frequentazione pregressa, ed è stato abbastanza naturale. Tra l'altro noi abbiamo anche la redazione del giornale che si chiama Napoli Monitor, che facciamo da ormai da una decina d'anni, di cui Chop e Cuff sono i grafici, ma insomma un gruppo di lavoro che è insediato in quel quartiere già da tempo, per cui la relazione con i bambini c'era già, e le idee, anche un po' di idee nostre, diciamo, su questa. Insomma, diciamo che il film è un po' è nato dal talento di Chop e Cuff e da anni anche di lavoro con i ragazzi, con i bambini nei quartieri della città. Diciamo da questo insieme di cose è nata fuori l'idea di seguirli. Volevamo fare un film d'azione, sapevamo che loro insomma sono incontenibili quando hanno un obiettivo, quando hanno sono calati in un'avventura come questa, diciamo, che a un occhio estraneo può sembrare anche abbastanza assurda o pericolosa o anche, diciamo, a seconda dei punti di vista, completamente fuori dalla legalità o che rasente il vandalismo, diciamo. Noi abbiamo cercato di seguirle senza giudicare più di tanto questa questione, naturalmente con una evidente empatia nei loro confronti, ma tra l'altro loro comunque hanno fatto quasi nessun caso alla telecamera, avevano il loro obiettivo, e per cui erano impegnati nella ricerca degli alberi, e questo lo si vede anche nel film. È venuto fuori insomma un film molto movimentato, in cui i ragazzi, tra l'altro è stato girato con una Panasonic da 1.000 euro, diciamo, con mezzi molto semplici. Poi ci ha dato una mano la Parallelo 41, diciamo, la casa di produzione per il montaggio, e poi soprattutto per far girare il film, che comunque è andato girato molto in Italia, soprattutto all'estero, nei festival, tutte cose, diciamo, che noi non avevamo, per le quali non avevamo nessun tipo di pratica, di preparazione, per cui insomma è stato importante Antonella Rinocera e la Parallelo 41, e adesso il film ha trovato una piccola distribuzione nazionale grazie a Lab 80 di Bergamo, per cui oggi c'è a Roma, al Film Studio, a Milano, al Cinema Beltrade, a Perugia, al Modernissimo, se non sbaglio, e poi insomma si spera in altre città italiane nelle prossime settimane, insomma, anche se non sarà facile, ma si spera anche col passaparola, comunque il film insomma già è stato visto parecchio soprattutto nei festival. Beh, oltre a ricordare nuovamente l'appuntamento di quest'oggi al Cinema Film Studio qui a Roma, la tua presenza, dacci anche dei riferimenti web per avere magari un calendario di proiezioni. Sì, sono sul sito di Lab 80 e sul sito di Chop e Cuff, ci sono gli appuntamenti poi aggiornati. Benissimo. Diciamo, ci sono anche diverse schede sul film, il trailer, un po' di materiali sul film. Poi sul sito di Chop e Cuff si capisce anche meglio, e anche sul sito di Napoli Monitor, in effetti, si capisce anche un po' meglio il lavoro, diciamo, del collettivo, del gruppo che è attorno a questo film. Luca, io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo per oggi e a presto. Grazie mille anche a voi, a presto. Ciao, ciao. Ciao. Luca Rossomando, autore del soggetto del documentario Il Segreto, quest'oggi al Cinema Film Studio qui a Roma. E sai perché so di avere ragione? Perché io ho una macchina di grossa cilindrata e tu hai un'utilitaria. Se Finello avesse preso delle mazzette, lo avrebbero radiato. No, per favore. Mi stai dicendo che 2 anni fa il tuo ufficio è sceso a patti con una mela marcia? Ecco voi. Senti, Blake, stavolta è differente. Stavolta a Finello hanno trovato in una tasca della droga sequestrata i contanti per $5,000 nell'altra. Nella tasca della sua giacca, santo Dio, era in uniforme. Jesse era un fuorilegge, un bandito, un criminale. Anche quelli che gli volevano bene non hanno niente da dire. Ma non ce ne vergogniamo. E non so perché, ma credo che neanche l'America si vergogni di Jesse James. Forse perché era audace e ardito, come tutti noi vorremmo essere qualche volta. Forse perché ci rendiamo conto che la colpa non era tutta sua, ma che era il prodotto dell'ingiustizia del suo paese. Ed eccoci con Patrizia Rappazzo, direttrice della 22esima edizione di Sguardi Altrove Film Festival allo spazio Oberdan e Cinema Beltrade a Milano, a partire da domani 20 fino al 28 marzo. Patrizia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille, buongiorno a tutti. Allora, comincia a essere ad avere un'età questo Sguardi Altrove, 22esima edizione. Raccontaci, insomma, a partire da quali sono le sue caratteristiche, anche come è stata strutturata questa 22esima edizione. Allora, sì, 22 anni di lavoro, devo dire faticoso, però sicuramente di successo, soprattutto il piacere di presentare quest'anno questa manifestazione che in realtà è veramente significativa da tutti i punti di vista, sia per quanto riguarda il linguaggio cinematografico. Presentiamo un centinaio di film, di cui il 60% in anteprima italiana, europea e in alcuni casi anche mondiale, per cui per noi è veramente un grande pregio, un grande onore, devo dire, presentare dei lavori di registe nuove. E poi anche per quanto riguarda i contenuti, perché il festival da sempre coniuga proprio la ricerca della qualità cinematografica con dei contenuti significativi che vanno in linea poi anche con quella che è la caratteristica del festival da sempre, quindi un'attenzione ai temi della donna a livello internazionale, ma anche ai temi dei diritti umani e ancora i temi della politica internazionale e anche temi sociali caldi nel paese. Infatti il festival attraversa un po', se volete, la storia e la politica internazionale, rileggendo la realtà attraverso il linguaggio del cinema e poi dell'arte contemporanea in generale. Patrizia, quante opere più o meno saranno presentate al festival? Un centinaio. Sono previsti anche ospiti? Certo, sono previsti degli ospiti che sono legati naturalmente ai loro film e anche a delle aree tematiche. Mm-hmm. Allora, il festival quest'anno ha come tema portante il tema dell'identità, un'identità plurima, negata, risultato di diaspore territoriali e anche di ibridazioni culturali, per cui si è pensato di aprire una riflessione proprio su quelle aree del mondo che sono particolarmente colpite, come il Medio Oriente. Abbiamo un focus a cura di Sergio Di Giorgi e Maurizio De Bonis proprio sulla famiglia, l'idea femminile nel Medio Oriente, con tutta una serie anche di anteprime italiane, tra cui Self-Made di Shira Geffen, che sarà presente al festival insieme al direttore della fotografia del film. Tra gli altri ospiti, nelle varie sezioni, abbiamo anche è la regista di Lavoratrici, che è nel concorso concorso dedicato ai documentari, ma anche Barbara Nava, che firma un film girato in Israele e lo presenta a Milano in anteprima assoluta. E poi avremo anche dei titoli nuovissimi che sono legati anche alla quella che è la nostra città, con un progetto specifico in collaborazione con il Dipartimento di Architettura della città, ma anche i film dei giovani cineasti in erta della Scuola Sperimentale di Roma, ma anche quelli dello IED e della Civica di Milano. Insomma, è un palinsesto variegato che fa una mappatura di quello che è il cinema oggi, delle donne relativamente ai concorsi internazionali, lungometraggi, cortometraggi e documentari, e poi anche della regia maschile, che è disseminata anche in tutte le altre sezioni del festival. Bene, a questo punto in chiusura ci lasci degli indirizzi internet per la programmazione? Certo, allora troverete il programma, il calendario giornaliero, le presentazioni se volete approfondire un po' la conoscenza della nostra manifestazione sul nostro sito, che è sguardialtrove@filmfestival.it. Se ci volete invece scrivere, sguardialtrove@gmail.com. Quest'anno abbiamo aperto anche un forum aperto proprio al pubblico. Se la gente vuole partecipare, vuole dirci la sua anche sul nostro festival, a scrivere anche dei pezzi critici, siamo aperti anche a questo e con questo anticipo e presenterò naturalmente domani sera con piacere il premio del pubblico, che potrà partecipare al vincitore partecipando ad una votazione online sul nostro sito e sul Facebook. Benissimo, Patrizia, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, crepi il lupo, vi aspettiamo. Ciao ciao. Ciao. Patrizia Rappazzo, direttrice della 22esima edizione di Sguardi Altrove Film Festival, allo spazio Oberdan e al Cinema Beltrade a Milano dal 20 al 28 marzo. Essi era un fuorilegge, un bandito, un criminale. Anche quelli che gli volevano bene non hanno niente da dire. Ma non ce ne vergogniamo. E non so perché, ma credo che neanche l'America si vergogni di Jesse James. Forse perché era audace e ardito, come tutti noi vorremmo essere qualche volta. Forse perché ci rendiamo conto che la colpa non era tutta sua, ma che era il prodotto dell'ingiustizia del suo paese. Forse perché per 10 anni ha preso in giro il governo. O perché faceva sempre bene quello che faceva. E dove l'hai presi questi soldi? Ce li ho, punto e basta. Questa è la sola cosa che si rispetta in questo paese. Non la dignità. E non ha importanza come li hai, basta che ce li hai. Tom? No. E mi chiamo Thomas. Ma noi ti abbiamo chiamato Tom. È sul tuo certificato di nascita. L'ho cambiato. Perché questi mica l'hanno preso le manganellate dalla polizia di Felpa. Nel 60 c'eravate in piazza a Genova, per cacciare il governo Tambroni, c'eravate, no? Vedi, tutti zitti. I banditi sono migliori. E io ho imparato ad amarli. Se quegli uomini sono pericolosi è solo perché noi gli abbiamo negato i loro diritti. Bene, siamo in collegamento con Massimo Chiellini per parlare della campagna di crowdfunding per il documentario Cooperativa Mangusta. Massimo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito. Beh, ci avevate contattato con piacere, vista la tematica, abbiamo accolto la vostra proposta. Di cosa si tratta, Massimo? Raccontaci un po'. Dunque, il documentario è innanzitutto un documentario, un film documentario che racconta, o meglio racconterà, perché non abbiamo ancora finito le riprese, la storia di Lenny Bottai. Lenny Bottai è un pugile ancora in attività, livornese, che merita, diciamo, di essere raccontato, di avere un documentario dedicato alla propria esperienza sportiva, perché è una vicenda molto particolare sia dal punto di vista proprio meramente sportivo, perché Lenny era un pugile da ragazzino, a 20 anni, 21 smette, sta fermo fino ai 27, a 27 riprende ancora dilettante e in 10 anni arriva a combattere a Las Vegas. Quindi è una storia, diciamo, di riscatto e di rivincita che è molto appassionante, perché per il pugilato 27 anni sono già abbastanza, insomma, non è uno sport, non sono le bocce, sia tardi. E quindi questo aspetto della storia è quello che a me e all'altra autrice, regista del film, Silvia Beconi, ci ha colpito subito moltissimo. E poi il modo in cui Lenny ha percorso questa sua carriera in ritardo, perché l'ha fatto senza, diciamo, piegarsi, senza entrare nell'establishment della box, cioè gestendo la propria carriera da indipendente, evitando trucchi, magheggi, cose che nella box sono abbastanza frequenti, e soprattutto l'ha fatto basandosi in una palestra popolare, nella sua palestra popolare che ha fondato e ha cresciuto e con cui è cresciuto. Quindi per riassumere una cosa che Lenny dice spesso, cioè la box in un certo senso non è uno sport di squadra, non è uno sport individuale, ma è anche uno sport di squadra, e questo è un po' il senso, l'aria che si respira nella palestra Spes Fortitude di Livorno, e il senso che Lenny ha dato alla sua carriera sportivamente straordinaria, perché al di là che ha vinto vari titoli, 4 internazionali e un titolo italiano, ma poi straordinaria per il modo e i tempi in cui si è svolta, e poi proprio questo aspetto, diciamo, collettivo la rende, secondo noi, una storia da raccontarsi, ecco. Ecco, proprio a proposito dell'istanza collettiva, uno degli aspetti più interessanti è anche il percorso umano e politico di questo pugile. Sì, anche se premetto, diciamo, il percorso, diciamo, umano e politico affianca e dà una sostanza al personaggio, certo, però non è quello, come dire, che caratterizza il suo percorso sportivo, perché Lenny è un pugile e un atleta, come dire, a 360 gradi, non è altro. Poi questo personaggio, quando lo si va a conoscere, ha un background sociale, culturale, di riferimento, che gli danno anche uno spessore diverso, perché Lenny comunque è stato sempre stato parte del movimento antagonista livornese, quindi ha maturato le sue idee, ha fatto parte della curva nord del Livorno Calcio, notoriamente di sinistra, insomma ha maturato un background, delle relazioni che poi lo hanno accompagnato e aiutato nel percorso, diciamo, prettamente sportivo, ma ha fatto di lui una persona con uno sguardo certamente critico. Questo sguardo critico è quello che gli ha permesso poi di pensare e realizzare, appunto, una palestra popolare che desse spazio per fare sport ad alto livello, perché questo è l'importante: nella palestra di Lenny si fa sport ad alto livello a prezzi popolari. Come dire, è un mix di una formazione sua personale, individuale, e poi una invece esercizio pubblico nel mondo dello sport, che in qualche modo non si tiene distante da quello, ovviamente, però non sovrappone i due piani, ecco. Nella palestra di Lenny si fa la box, non si fa la politica, sì, poi viene fatta in un certo modo, perché lui è una persona con uno sguardo e una cultura e un mondo di riferimento, appunto, che è quello dell'antagonismo. Ecco, comunque la provenienza livornese costituisce in generale un elemento identitario forte. Beh sì, come per molti di noi livornesi, come dire, una città sì, che in qualche modo costituisce sempre un elemento identitario. Per Lenny è fondamentale. Lenny così, come ho quasi ribattuta quando siamo andati, quando io l'ho accompagnato a Las Vegas, appunto, dove è andato a combattere la semifinale, quando i giornalisti gli chiedevano lei è italiano, diceva no non sono italiano, sono livornese. Ecco, proprio a questo proposito volevo chiederti quali sono gli elementi di questa forte caratterizzazione per chi vive a Livorno. Beh, quella che si dice la livornesità, che non so perché, ma tanto se ne parla sempre. non saprei nemmeno, è sicuramente un approccio, questo penso che si possa condividere, è un approccio, uno sguardo dal basso. Sì. Cioè Livorno come città di porto, quindi città, come dire, proletaria nell'essenza, ha sempre avuto uno sguardo dal basso, cioè lo sguardo collettivo, il sentimento anche collettivo, condiviso, è uno sguardo, diciamo, molto sì, appunto, molto dal basso. Non c'è quell'atteggiamento tipico di molte città, che chi si distingue, chi ha di più è più degli altri. A Livorno questa cosa è sentita meno, c'è ancora, o meglio, poi chiunque, tanti ti diranno ma non è più come una volta, e è anche vero, però c'è comunque ancora una collettività che si percepisce come collettività, cosa che in altre città, io vivo a Milano ormai da più di 10 anni, quindi lo so bene, in altre città non si percepisce assolutamente. Sì. Senti Massimo, ci dai gli estremi per la partecipazione a questa campagna di crowdfunding? Certo, molto volentieri. Noi abbiamo aperto il crowdfunding sul sito indiegogo.com, e basta andare sul sito indiegogo.com, cercare Cooperativa Mangusta e vi apparirà la nostra pagina con il trailer, tutta la storia nel dettaglio, eccetera, e lo spazio per fare delle donazioni. C'è tempo fino al 18 aprile, quando si chiuderà la campagna, a mezzogiorno del 18 aprile. Ci diamo appuntamento per l'uscita pubblica? Magari, molto volentieri. Va bene Massimo, allora un abbraccio e a presto. Grazie mille. Ciao. Un saluto a tutti. Massimo Chiellini per parlarci della campagna di crowdfunding sul documentario Cooperativa Mangusta. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il giovedì dalle 14 alle 15. Ha sempre sofferto di incubi? No, ne sono venuti da quando le ho tolto la carta di credito. Il mondo è degli uomini, già. Vedi qualcosa che ti piace, la insegui e la prendi, è la natura. Perché noi siamo forti e le donne deboli? Il forte conquista e provvede per il debole. L'uomo è qui per questo. Insegna a questi ragazzi, ci saranno più uomini. E più guerre. Ai miei non insegnarlo. Pensi che la corruzione riguardi un solo distretto? Questo è solo un filo, ma se lo tiri disfi tutto il tappeto. Blackie, se sono tutti colpevoli, allora devono essere tutti espulsi. Pulizie Pasquali? Sì, esatto. 50, 100 poliziotti alla sbarra. E ora ho voglia di sbattere la testa! E fallo subito, che ti tiene? Ho proprio voglia di sbatterla. Sul jukebox! E fallo! Ora hai fatto davvero? M'hai detto di farlo, io l'ho fatto. Conta pure su di me per tutto quello che ti serve. Senti, carino, se vuoi chiamare la polizia, chiamala, ma poi ricordati che sono un branco di falliti impotenti, ok? Questa sì che è bella! Ha sempre voluto diventare poliziotto, ma non c'era tagliato. Non ha voluto arrendersi, veniva sempre da me. Voglio diventare poliziotto, zio. Tutti in famiglia sono poliziotti, zio. Voglio diventare un poliziotto. Provavo pena per lui. Noi esistiamo senza nazionalità, differenza di religione o colore della pelle. Voi vi nutrite di guerre, omicidi, corruzioni, ci imbrogliate e ci fate credere che per il nostro bene, e poi i criminali siamo noi. Va bene, sono un criminale. Ed eccoci con Corrado Azzollini, produttore e distributore del film Io sono Mateusz, che è uscito in sala lo scorso giovedì 12 marzo. Corrado, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Benvenuto e buon pomeriggio a tutti. Allora, non siamo riusciti a parlarne la scorsa settimana. Intanto ti chiedo come è andato questi prime 7 giorni, come sono andati? È andato discretamente, è un film diciamo difficile, non è un film per tutti, anche se poi tutti dovrebbero vederlo. Mm-hmm. È un film che parla di un ragazzo a cui viene diagnosticata una grave paralisi cerebrale, e dopo 25 anni di esperienza da parte di questo ragazzo all'interno di strutture, prima con la famiglia e poi all'interno di strutture, si scoprirà che il ragazzo è completamente, perfettamente in grado di intendere e di volere, quindi di comunicare col mondo esterno. Il ruolo del protagonista è interpretato da David Ogrodnik, che è anche uno dei protagonisti del film Ida, quest'anno preso e premiato agli Oscar. Sì. Oh, Corrado, non è la prima volta che il cinema si occupa degli handicap, però sempre più spesso anche la società comunque ha un diverso approccio, come nel caso descritto dal film, in cui praticamente non veniva ritenuto semplicemente un handicappato, mentre poi col tempo si è capito che aveva potevano essergli dati degli strumenti per comunicare, insomma, e che a tutti gli effetti era come le persone normali. Assolutamente, il tema della disabilità è un tema difficile, così come è difficile da parte di chiunque e di chi soprattutto non è affetto e non è vicino a questo mondo poi affrontare questa tipologia di problematiche. Io personalmente, al di là di essere distributore, ho avuto delle esperienze, perché ho ricoperto un ruolo da responsabile in alcune strutture di questa tipologia, quindi sono particolarmente vicino al settore, e mi è capitato addirittura a volte anche di familiari di ragazzi o genitori di ragazzi disabili che hanno difficoltà a capire e a interpretare quelle che poi possono essere le esigenze che poi permettono ai ragazzi di migliorarsi e di riuscire a interloquire con l'esterno. Uno dei problemi è anche il peso che grava spesso solo sulle famiglie, che difficilmente trovano un sostegno. Beh sì, questo sì, io non sono esperto di finanza, però in questo momento immagino, da quello che mi viene detto, che mi raccontano, che i sostegni pubblici per questo settore sono sempre minori. Però al di là del sostegno pubblico, io credo che bisogna fare cultura in questo senso. E questo film è un film che permette di far riflettere e permette non solo a chi è vicino a questo tipo di problematiche, ma a chiunque, di avvicinarsi, di poter dare anche una possibilità in più a chi è affetto da una disabilità. Che è il problema più importante oggi, che va sicuramente affrontato in un modo più approfondito. Ecco, proprio in relazione al tema della disabilità, che tipo di riscontri sta avendo il film anche rispetto al pubblico? Beh, sicuramente un giudizio eccezionale. Che tutta la carta stampata ne sta parlando ampiamente, dalle televisioni nazionali ai giornali, ovunque. Cioè, a livello mediatico il film sta avendo veramente una visibilità che nemmeno noi immaginavamo. E da parte di chi si occupa di handicap ci sono stati riscontri? Anche, ci sono delle associazioni di settore che hanno sposato questo film e con la quale stiamo collaborando. È un film che è vicino anche come tematica, è stato anche sposato tra virgolette anche dalla Chiesa Cattolica, tant'è vero che sia Famiglia Cristiana, sia l'Avvenire e sia l'Azione Cattolica ne hanno parlato approfonditamente. E quindi questo è anche uno strumento per dare maggior diffusione a un film con queste caratteristiche. Senti Corrado, ci dai dei riferimenti per saperne di più sulle sale che lo proiettano? Sì, provo a dirvi qualche zona memoria, perché non è facilissimo. Non sala per sala, ma insomma un vostro sito di riferimento, sì, per saperne di più. La pagina Facebook di Dracca, che è sempre aggiornata, quindi dove è possibile vedere le sale, dove in distribuzione. Mi piace aggiungere che sarà un film che noi distribuiremo per un periodo, speriamo di distribuire per un periodo lungo, perché vista la tematica e la tipologia del film, sicuramente un film che potrà avere una durata prolungata sulle sale, ecco. Quindi anche se le sale in questo momento sono più o meno 10 per settimana, comunque è un film che girerà per diversi mesi. Pensate un po' che dove è stato distribuito in altri paesi d'Europa è rimasto in sala quasi 6 mesi. Senti, sull'esperienza precedente rispetto alla regia e a come poi voi siete arrivati a contatto di questo film e avete scelto poi la distribuzione. Beh, la distribuzione di questo film, perché prima di tutto noi siamo una giovane distribuzione, quindi il motivo per cui decidiamo di distribuire un film è perché ci piace. Questo film ci piace, è un film straordinario, bellissimo, che non può non essere visto, non può non essere distribuito. E anche le scelte dei prossimi film che distribuiremo e che abbiamo già messo in cantiere, alcuni vanno tutti in questa direzione, e in questo momento le scelte le facciamo soprattutto col cuore. È chiaro che facciamo anche attenzione perché si possano avere un ritorno, insomma, anche dal punto di vista economico. Mm-hmm. Senti, in Italia non so, non adesso non mi ricordo, ma è il primo film a questa firma registica che ci arriva nelle sale, sono Mateusz, o c'è qualche opera precedente anche? Come Marcin Pryczka, come sì, regista, sì. Allora, lui è regista polacco, ha fermato, non ricordo quali altri film ha fatto, anche perché mi diceva il distributore, non siamo i produttori. Però del film. Forse in Italia è il primo che arriva. Credo che in Italia sia il primo che arriva. E l'origine di questo film nasce poi da una storia vera, perché Matteo si esiste realmente, tanto è vero che per chi ha visto il film, che sì, la sigla sì. finale del film viene visto il ragazzo, il vero Matteo. Esiste un libro anche che racconta questa storia in Polonia, quindi il regista e lo sceneggiatore hanno conosciuto e frequentato il vero Matteo, si hanno venendo prima a conoscenza, insomma, di tutta questa storia da questo libro. Va bene, allora io ti ringrazio, ci sentiamo per le prossime novità. Perfetto, grazie, ciao Corrado. Buon pomeriggio a tutti. Ciao. Corrado Azzollini, produttore e distributore del film Io sono Mateusz, uscito in sala lo scorso giovedì 12 marzo. Noi esistiamo senza nazionalità, differenza di religione o colore della pelle. Voi vi nutrite di guerre, omicidi, corruzioni, ci imbrogliate e ci fate credere che per il nostro bene, e poi i criminali siamo noi. Va bene, sono un criminale. Il mio crimine è una sana curiosità. Sono un pirata, un hacker, e questo è il mio manifesto. Chi sei? Un maledetto progettista dell'involucro esterno. Hai costruito questa cosa? No, solamente l'esterno. E non so niente dei numeri, né di altro dell'interno. Sono stato incaricato di progettare un involucro vuoto. Per l'amor di Dio, Wolf, tu sapevi che cos'era? No. Non era così all'inizio. Chi c'è dietro? Non lo so. Chi ti ha pagato? Non l'ho chiesto. Non ho mai messo piede fuori dall'ufficio. Ho sentito al telefono delle persone, altri come me, specialisti che lavoravano su piccoli dettagli. Nessuno sapeva cosa fosse. Nessuno se lo chiedeva. È la loro tattica. Tutti separati, così che la sinistra non sappia cosa fa la destra e la mente non corre alcun rischio. Quale mente? Quella che comanda ogni cosa, capisci? Il Pentagono, le grandi multinazionali, la polizia. Troviamo nuovamente Simona Fasulo, regista del documentario Il futuro è adesso, che sarà programmato da Rai Storia il prossimo 25 marzo, che è mercoledì. Simona, ben ritrovata. Ben trovato Federico, buongiorno a tutti. Allora, ne avevamo parlato quando il tuo lavoro è stato, se non sbaglio, presentato al Cinema America Occupato, e sì. Adesso c'è questa proiezione televisiva. Per chi ci ascolta, raccontiamolo un po', cos'è Il futuro è adesso? Allora, Il futuro è adesso, diciamo che è il terzo documentario. I due che abbiamo proiettato al Cinema America Occupato sono due documentari, appunto, uno era su Tano D'Amico, se ricordi, sì, il fotografo, sì. E l'altro invece era su tre storie di droga e carcere, di tre adulti, tre uomini adulti, appunto, con quello che comporta, appunto, tutto un discorso sulla giustizia. Il futuro adesso invece sono ragazzini quelli che andiamo a scoprire dentro il carcere, perché è un viaggio che io ho fatto attraverso appunto tre carceri diversi in tre luoghi italiani, a Torino, al Ferrante a Porti, a Pontremoli, nel carcere che è l'unico carcere femminile e minorile in Europa, e a Palermo, al Malaspina di Palermo. Quindi quelli che incontro stavolta sono minori, sono ragazzini, ragazzini che hanno sbagliato e che sono in carcere. E però ho fatto un viaggio attraverso anche queste storie che secondo me naturalmente sono dolorose, sono storie di sbagli grossi fatti, perché ho scoperto che per finire in carcere, fortunatamente quando sei minorenne ce ne vuole, devi essere veramente, devi avere fatto dei reati molto gravi oppure averne fatti tanti, essere veramente recidivo, perché il carcere è l'ultima spiaggia, diciamo, prima di andare in carcere i ragazzi vengono curati, diciamo così, sì, dalla giustizia, dal Dipartimento di Giustizia Minorile, ma si cerca di evitarglielo questo trauma, diciamo, del carcere. Anche se per me, che un pochino il carcere l'ho frequentato come volontaria a Re Bibbia, il carcere minorile è tutt'altra cosa, cioè si capisce insomma che c'è una cura, e infatti la giustizia minorile è una sorta di fiore all'occhiello, insomma, della giustizia italiana, c'è una cura diversa per questi ragazzi che sono tutti, proprio in quanto ragazzi, non solo recuperabili ma proprio curabili in qualche modo, no? Devono essere curati in maniera diversa, in maniera affettuosa, e mi sembra che in questo viaggio, oltre a queste storie di questi ragazzi che sono interessanti e toccanti, ci sono anche ho conosciuto insomma un'umanità che è quella di coloro che lavorano con i ragazzi, con i minori, all'interno del carcere, fuori del carcere, gli assistenti sociali, gli educatori, la stessa polizia penitenziaria, che sono diciamo hanno studiato per stare con loro, con i ragazzi, con i più giovani, e quindi c'è una modalità diversa, insomma, di approccio molto molto interessante. Senti, il secondo dei tuoi documentari che si occupa di carcere, come mai questo interesse così approfondito? Allora, intanto in realtà questo documentario, più che dall'interesse di parlare di carcere o di giustizia, parte dall'interesse per gli adolescenti. Avendo una figlia ormai più che adolescente, ho notato, diciamo così, avendo a che fare con tanti ragazzi, quanto sia difficile riuscire per un adulto a capire che cosa frulla nella testa di un ragazzo, ed è una cosa invece molto interessante e molto delicata, perché la relazione con l'adolescente è quello che poi lo farà uomo, insomma, in qualche modo lo farà adulto, no? E secondo me, in un momento in cui, questa è la mia sensazione, insomma, molti adulti, insomma, che siamo noi adulti un po' tutti, come si diceva un tempo Peter Pan, un po' tutti poco adulti, no? Un po' tutti bambini, siamo un po' narcisisti tutti quanti, siamo noi al centro dell'attenzione. Questi ragazzi, i nostri figli, insomma, sono un po' più sbandati, perché non hanno delle figure di riferimento adulte. Mm-hmm. Secondo me, ripeto, ma non solo secondo me. No, prima. E allora, sì, vai, sì, continua. No, io allora dicevo, sono andata ad un convegno in cui appunto erano presenti anche personalità del Dipartimento di Giustizia Minorile, e in cui si parlava proprio di questo, cioè della relazione tra gli adulti e gli adolescenti, e di come appunto fossero diversi i reati commessi da questi ragazzi, di come ci fosse una mancanza di relazione con la realtà. Molto molto delicata e molto grave, perché quando poi appunto abbiamo letto tante volte sul giornale ragazzi che magari fanno commettono dei reati anche brutti, efferati, magari in gruppo non, e poi dicono, dopo essere stati interrogati dalla polizia, ok, adesso io ho detto tutto, posso tornare a casa, vuol dire che non hanno un concetto di realtà ben preciso, insomma, no? Mm-hmm. E questo, sì, per carità, internet, il computer, tutte queste storie di cui si parla, ma è la relazione con, con l'adulto che manca, relazione con delle figure genitoriali, no? Sì, sì, sì. Più o meno, insomma, non solo, ma anche. Allora, da questa cosa è nato questo, questo terzo documentario, diciamo così. E poi andando in queste tre realtà carcerarie, appunto, ho scoperto anche che so, c'è questa cosa di Pontremoli, per esempio, che è molto interessante. I ragazzi, intanto i ragazzi in carcere sono davvero pochi, diciamo, rispetto a quelli trattati fuori del carcere, cioè nelle comunità, oppure seguiti comunque dagli uffici sociali del minorile. Sono veramente una minoranza. Al carcere del Ferrante Porti a Torino sono all'incirca 27, se non sbaglio. Sono soprattutto stranieri nel carcere di Torino, viceversa, per esempio, nel carcere di Palermo sono soprattutto italiani, no? Mm-hmm. E poi c'è questa realtà a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, e ci sono solo 11 detenute, tutte femmine, perché è l'unico, appunto, come dicevo prima, l'unico carcere femminile minorile in Europa, comunque sicuramente in Italia, dove sono 11 ragazzine, e quasi tutte rom. E la particolarità di queste ragazzine è che spesso lì trovano un ambiente talmente diverso da quello che vivono nella loro realtà, e io insomma sono rimasta con loro un paio di giorni, siamo stati tutti insieme, abbiamo mangiato insieme, chiacchierato, fatto delle lunghe chiacchierate, e queste ragazze spesso è nel carcere la prima volta che vengono che vanno a scuola, per dire, quindi imparano, sono ragazze di 15, 16, 17 anni che magari hanno già un figlio, due alle volte, e quindi hanno veramente la prima volta che vengono a contatto con una realtà diversa dalla loro. Prima mi ha colpito questa cosa e parlavi di cura rispetto a questi giovani, però per quello che ne so, insomma, grossa parte del mondo legato al crimine, le motivazioni spesso, quasi sempre, sono di natura economica, ma anche ambientale. Sì, infatti anche per questo appunto c'è differenza tra il nord e il sud, no? E sono di natura economica, infatti la maggior parte dei reati sono reati contro il patrimonio, però questo che significa? Che naturalmente all'interno del carcere loro dovranno, questi ragazzi, per esempio, una cosa che si cerca di fare il più possibile è insegnar loro un mestiere, che so, sia a Torino che a Palermo abbiamo, e così anche a Pontremoli abbiamo, per esempio, visitato tutti questi laboratori che ci sono all'interno del carcere, dove questi ragazzi imparano, che so, a far cucina, a fare i biscotti, a fare i gioielli. Però tu dicevi dal punto di vista ambientale, no? Ed è giusto, perché poi di fatto in una situazione deprivata, se questo è quello che intendevi, sì, certo, è più facile incappare in situazioni di reato, è ovvio, se stai diciamo che non è sempre esclusivamente per questo che accadono, che succede di rimanere incapsulati in una questione, in questioni penali, diciamo. Però sicuramente la cosa importante, come dice uno degli assistenti sociali siciliano di Trapani che ho intervistato, diceva: al di là della questione ambientale c'è un fascino, c'è il fascino del male, che negli adolescenti è importante, no? È il fascino del sono più figo di te perché faccio delle cose, no? Che sono comunque forti. Allora che cosa dovrebbe fare un adulto? Dovrebbe insegnargli che c'è la possibilità, c'è anche un fascino del bene, che forse alle volte è più interessante del male. Per dirtene una, che cosa fa questo assistente sociale, ma anche in altre zone d'Italia si fa tutto questo? Quello che si è inventato questo signore insieme con il Dipartimento di Giustizia Minorile è che prende un paio di ragazzi del penale, del penale, e si riporta, che so, in Africa, nei brosari, in posti dove loro verranno necessariamente, avranno a che fare prima di tutto con l'altro, quello che è diverso da te è che generalmente, soprattutto in Sicilia, nel Trapanese in particolare, con tutte le immigrazioni che ci sono, viene considerato peggio del peggio, no? E quindi verranno ad avere a che fare con persone che invece sono nella loro terra, e che quindi in qualche modo i ragazzi si renderanno conto che c'è una differenza, che c'è la possibilità di convivere, di coabitare in maniera sana. E poi dopo verranno messi al lavoro proprio lì, in quei posti, mm-hmm. e si renderanno conto che c'è una soddisfazione, c'è la soddisfazione della relazione con persone che magari sono bisognose altrettanto come loro, no? Sì. Insomma, questo certo, diciamo che è la punta di diamante, ma ci sono tante altre possibilità. Mm-hmm. Sempre a Palermo, per esempio, ci sono due ragazzi, e le raccontiamo nel documentario, due ragazzi che fanno una scuola di vela, escono tutti i mercoledì dal carcere insieme con il direttore del carcere e vanno a fare vela, e questa barca a vela, che poi all'interno loro stanno un'altra barca a vela ovviamente, che stanno ristrutturando, poi servirà per portare dei ragazzi handicappati, e loro saranno gli skipper, in giro per il golfo. Sì. Voglio dire, ci sono tante possibilità di poter trasformare, ed è questa la cosa importante, trasformare il male in bene. Dovrebbe essere quello che dovremmo fare tutti, ma non è così facile. Simona, a Rai Storia il 25 marzo, Il futuro è adesso. Per invece saperne di più, ci dai delle indicazioni web? Ce l'hai un sito o qualcosa del genere? No, non ho un sito, però suppongo che se non si riesce a vedere questo documentario il 25 marzo, poi sarà sul sito di Rai Storia. Benissimo. Simona, io ti ringrazio, un abbraccio e a presto. Ringrazio te, Federico. Buongiorno, buonasera anzi a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Simona Fasulo, regista del documentario Il futuro è adesso, su Rai Storia, il 25 marzo prossimo, cioè mercoledì. In collegamento con il regista Roberto Faenza, in questo caso autore di un ebook dal titolo Finirai, che è online dal 16 marzo scorso, lunedì. Roberto, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Beh, intanto ogni volta che vi ascolto dico per fortuna che ci siete. Ah, che bello. Bravi. Allora, un lavoro insolito, perché si tratta di un libro e perché si tratta di un ebook. Allora, come si parla poi di televisione oltre che di cinema, raccontaci un po' di questa operazione. Ma dunque, si parla soprattutto di televisione, del suo futuro e della riforma della RAI. Ho scelto l'idea dell'ebook perché ho voluto arrivare in tempo reale in quello che è il momento appunto di questa riforma annunciata dal governo. Direi che è un libro che va letto un po' come un film o come un romanzo. C'è un bellissimo prologo di Franco Battiato, che ha preparato una playlist per accompagnare il libro, e un'introduzione dei due autori della casta, Rizzo e Stella. Dunque, di che parla sostanzialmente? Allora, Renzi ha promesso di togliere il giogo dei partiti che sovrasta la RAI. Purtroppo questa riforma che sta disegnando sostituisce i partiti con il governo, praticamente il governo decide il capo azienda e quindi decide tutto, il che è non soltanto non togliere i partiti, ma riportarlo quasi, direi, all'idea che ha avuto la Democrazia Cristiana dell'azienda, un'azienda pachidermica, non al passo con i tempi, con circa 12.000 dipendenti, di cui la metà praticamente inutilizzati, non aggiornati. Quindi sotto questo profilo è un'azienda irriformabile, e bisognerebbe fare molto di più e soprattutto molto di diverso, perché io penso che al pubblico non interessa chi gestisce l'amministrazione, interessa fare dei programmi e vedere dei programmi nuovi, diversi. Non si può morire di Don Matteo, noi non possiamo non competere ormai con la televisione che è nel mondo, vedi House of Cards, le grandi serie americane. Non abbiamo coraggio, anche perché un'azienda sotto la politica non potrà mai avere coraggio, non ci sarà mai una voce dissenziente, non ci sarà mai della dissonanza. Mm-hmm. Quindi se Renzi veramente volesse fare una riforma, dovrebbe capovolgere veramente quello che è lo stato attuale dell'azienda e farne veramente finalmente un'azienda libera. La RAI non è un'azienda libera, tant'è che la vera scadenza non è tanto la riforma che ormai si farà a mesi, ma la scadenza della convenzione Stato RAI. E io mi domando, ma se un giorno Mattarella, il presidente, il quale non dimentichiamolo mai che si dimise dal governo Andreotti proprio per dissenso sulla linea del governo nei confronti della televisione dell'allora legge Mammì che apriva appunto lo spazio a Berlusconi, se un giorno Mattarella decidesse che la convenzione Stato RAI non ha più senso perché il servizio pubblico non ha senso così come è disegnato, che cosa succederebbe? Questo è quello che si pone il quesito del mio libro. Senti, dai anche delle indicazioni su quelli che possono essere le soluzioni della malattia RAI. Beh, dunque, intanto la prima, sì, io do una serie di suggerimenti. Per esempio, togliere il canone. Non c'è nessuna ragione che noi si debba pagare il canone, ma perché la tassa, come dice giustamente il Censis, è più odiata dagli italiani. Gli spagnoli l'hanno tolta, e non è che gli spagnoli stanno meglio di noi, e il pubblico televisivo spagnolo ne è molto più contento. Già c'è la pubblicità, che bisogna c'è del canone, lo scrive anche Raffaele Capri in un bellissimo articolo di qualche giorno fa. Primo. Secondo, pensare ai giovani, cioè questa azienda pensa agli anziani, è un'azienda in cui tutto quello che viene prodotto è contro i giovani. I giovani non esistono, infatti non la guardano più la televisione, i ragazzi ormai guardano alcune reti, diciamo così, più fantasiose, oppure guardano in internet le grandi serie televisive americane. Quindi pensare ai giovani. Poi c'è il problema dei dipendenti, cioè 12.000 dipendenti noi non ce li possiamo permettere, quindi bisogna disegnare uno scivolo per quelli che sono in sovrappiù, e poi bisogna cominciare a produrre delle cose coraggiose, cioè noi non possiamo fare sempre i talk show, Ballando con le stelle, le fiction che vediamo, sempre preti, monache, suore, cioè dov'è il paese? Ecco, io penso che già queste tre cose sarebbero la vera riforma dell'azienda. Senti, è uscito online, ecco, per avere informazioni ci dai degli estremi? Si può comprare, dunque io praticamente è un libro autopubblicato con il gruppo di Cataweb dell'Espresso Repubblica, si va sul mio libro.it e si può comprare credo attorno ai 4 euro, una cifra abbastanza bassa, si può comprare anche stampato però costerebbe di più, non credo che sia difficile acquisirlo se uno vuole prendere. Benissimo Roberto, allora io ti ringrazio, a sentirci per le prossime novità. In bocca al lupo per la radio. Grazie, grazie, ciao, grazie, un abbraccio. Ciao. Roberto Faenza, autore dell'ebook Finirai, che è online dallo scorso 16 marzo. Fa un lavoretto insignificante, per esempio costruire un aggeggio in una città qualsiasi, e in seguito si viene a sapere che quell'aggeggio in realtà è un componente essenziale di una macchina di morte. Mi chiamo Dafino e sono uno spione privato. Proprio come te. Come? Un investigatore privato. E devo dirti che mi piace il modo in cui lavori. Mettendo una parte contro l'altra, andando a letto con tutti quanti. Una roba favolosa, veramente. Ehi, o spari o abbassi la voce. La strada è l'unica cosa che conta. Il tribunale è per la gente in doppio petto, gente che ha i soldi e avvocati con tre cognomi. Con la grana la giustizia del tribunale te la compri, ma sulla strada la giustizia non ha un prezzo. Dove sta seduto il giudice è cieca, ma da queste parti non è cieca, qui ce li hai come gli occhi. Siamo in un grande paese dove c'è la libertà di stampa, puoi lavorare altrove. Libertà di stampa, la stampa è libera per chi la possiede. Bene, parliamo adesso di Apollo 11. Non capita spesso, anche perché lo dicevo ad Agostino Ferrente che ieri mi ha cercato, non sono nella newsletter, gliel'ho detto più volte, ma comunque non mi arrivano le comunicazioni, anche perché poi i film proiettati, programmati sono il giovedì e ne potremmo parlare benissimo in radio. Comunque ha detto che ovvieranno a questo problema e ne parliamo questa volta con Giacomo Ravesi, che è in linea. Ci sei, Giacomo? Sì, ci sono, ciao. Allora, intanto per lanciare l'appuntamento di quest'oggi e non solo, e poi per parlare anche un po' più in generale delle scelte di programmazione a cui mi ha fatto riferimento Agostino ieri. Sì, grazie, infatti. Sì, per quest'oggi facciamo per la prima volta, diciamo, cerchiamo di tenere un film per più giorni usando il nostro modello, diciamo, quello dell'evento, della prima serata evento, che appunto è questa sera. Il film è Il venditore di medicine di Antonio Morabito, che verrà proiettata alle 8:30, alle 20:30, e con ospiti, in questo caso Maurizio Di Renzo, che introduce il film, alla presenza poi dell'attore protagonista Claudio Santamaria e poi dei registi e dei cosceneggiatori e produttori Amedeo Pagani e Michele Pellegrini. Il film poi verrà tenuto, diciamo, sia il venerdì e il sabato sempre alle ore 8, alle 20:30, e poi la domenica alle 18:30. Oh, ecco, era proprio questa scelta della tenitura di qualche giorno la novità di cui mi parlava Agostino, anche a fronte delle difficoltà dei film più piccoli a trovare una sala di riferimento. Sì, assolutamente, è chiaramente un tentativo che noi proviamo a fare, diciamo, mantenendo un aspetto nostro etico, diciamo, di linea editoriale, scegliendo dei film che abbiamo noi molto amato, diciamo, e che crediamo che forse non hanno trovato il loro pubblico in una maniera più espansa, quindi molto più diffusa. E quindi proviamo a fare questo tentativo, però mantenendo chiaramente anche sempre la dimensione documentaria, che, come sapete, è quella tipica dell'Apollo 11. Rispondete al telefono? Sì. Pronto? Proprio, sì, scusa, pensavo, sì. Ho sentito qualcosa. Quella tipica, dicevo, dell'Apollo 11. Infatti già dal mese di aprile ripartiremo con quelli che erano appunto il giovedì, le serate evento dedicate ai racconti dal vero. Benissimo. Senti, per quanto riguarda la programmazione, ci dai dei riferimenti? Come no, certamente. Allora, vi dico intanto i prossimi film. Sempre dello stesso stile, diciamo, della tenitura, per marzo avremo anche Piccola Patria di Alessandro Rossetto, che potete facilmente intuire il perché di questo tipo, no, di scelte. Alla presenza sia del 26 che il 27 dello stesso regista, quindi giovedì e venerdì della prossima settimana, sempre alle 20:30, con un po' una parte del cast che stiamo ancora mettendo insieme, sarà presente in sala. E poi il film, come sempre, sarà tenuto anche chiaramente il sabato alle 20:30 e la domenica alle 18:30. In questo mese ci sarà anche il 30 marzo, quindi è un lunedì, perché insomma poi quella è la settimana della Pasqua. Ci sarà un film che in qualche modo ha rappresentato una riapertura del documentarismo italiano, che noi abbiamo molto amato, quello che è rinato, diciamo, quello di creazione, rinato a partire dagli anni 2000, che è Piccola America. Sono 25 anni da Piccola America, e lì, anche lì, si farà una serata evento a partire dalle 21:30, alla presenza di Gianfranco Pannone, che è il regista del film, e una parte sostanziosa, diciamo, di tutto il cast: Ambrogio Sparagna, Francesco Bruni, Raffaella Leboroni, Marco Spoletini e via dicendo. Bene, bene. Tra l'altro lui mi diceva anche del desiderio di programmare Incapace di Eleonora Danco, che dovevo sentire quest'oggi, non ci riesco, provo quest'ultimo collegamento in questi ultimi 10 minuti, e insomma mi piacerebbe anche farle prendere questo impegno in diretta, insomma, magari sì, anche noi stiamo cercando di stringere un accordo. Benissimo. Ecco, molti di questi eventi sono anche rinati grazie alla collaborazione del premio Solinas, che è abituale legame con l'Apollo 11, e per esempio anche della rete degli spettatori. Bene, bene. Allora, Giacomo, io ti ringrazio, un abbraccio, ci sentiamo magari con più assiduità a partire proprio da oggi. Va bene, grazie, siamo contenti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie. Giacomo Ravesi, per quanto riguarda la prossima programmazione dell'Apollo 11 qui a Roma. È colpa tua, Toro Seduto. Firmi trattati di pace, ma loro si puliscono il culo coi trattati. Si spazzano il culo. È la furia dei soldati. Il saggio presidente Nixon non ne sa nulla.